Buongiorno a tutte e a tutti, ben arrivati, speravamo che arrivasse un po' di gente, ci siete, bravi. Grazie per aver accolto l'invito a trovarci qui questa mattina. Grazie in particolare ad Andrea Battaglia, presidente dell'Associazione Casa Dominor Italia e anche priore laico di questo monastero laico senza monaci che ci ospita. Grazie per aver condiviso e promosso insieme all'Associazione La Tenda dell'Incontro Giovanni Giorgis l'iniziativa di questa giornata. Ma grazie soprattutto a Francesco Cosentino di essere qui oggi con noi per parlarci di come essere cristiani e pensare la fede nel tempo dell'irrilevanza religiosa che è il nostro tempo. Francesco è calabrese d'origine, ma da molto tempo vive a Roma, dove insegna teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana ed anche presta servizio presso la Segreteria di Stato Vaticana con grande vicinanza di pensiero e di intenti con un altro Francesco che è il nostro Papa. Grazie perché ha accolto con immediatezza di un amico il nostro invito a venire, anzi a tornare qui tra le nostre montagne. Infatti aveva già trascorso con noi una indimenticabile giornata esattamente 4 anni fa alla Certosa di Pesio, e qualcuno se la ricorda perché è indimenticabile. Dunque, tornando qui oggi in questo piccolo monastero che a noi è caro, ma è un po' sperduto, un po' ai margini, un po' irrilevante per certi versi, almeno per adesso. Ma quello che è sperduto, periferico e irrilevante, non spaventa certo il nostro giovane relatore, che, come dimostrano i libri che da un po' di anni va pubblicando, è uno studioso che sa vivere la teologia non come un'attività solo accademica, da tavolino per addetti ai lavori, ma anche e soprattutto come un servizio rivolto a tante persone, oggi disorientate e ai margini, a tanti cristiani che si interrogano e che con fatica cercano come essere cristiani nel nostro tempo che cambia vorticosamente. E poiché il tema proposto dalla Tenda dell'Incontro per il 2023 riguarda proprio, scusate che giro la pagina, riguarda proprio come essere discepoli di Gesù oggi, ciò che ascolteremo questa mattina si inserisce molto bene nel nostro cammino e ne costituisce la quarta tappa, la quarta domenica della Tenda. Se qualcuno per caso non sapesse che cos'è la Tenda dell'Incontro, poi glielo chiede e glielo spiego bene. Così taglio il pezzo di oro. L'incontro di oggi sarà certamente molto interessante anche per chi appunto non fa parte della nostra associazione della Tenda, ma condivide con noi l'ostinata, instancabile ma anche fiduciosa ricerca per essere, o meglio per diventare, cristiani un po' più autentici e un po' più credibili. Grazie a tutti e possiamo cominciare. Bene, bentrovati. Sono contento di essere ritornato qui dopo 4 anni. In mezzo c'è stata una pandemia che ci ha molto provati e segnati, però sono contento che non si spegne appunto questa vostra ostinata ricerca, questa vostra davvero infaticabile ricerca della verità, ricerca di Dio, ricerca anche dei modi e delle forme per vivere la fede ed essere cristiani oggi in un tempo che, come vedremo e come suggerito dal titolo, in qualche modo consegna questa speranza del cristianesimo alla irrilevanza, e cercheremo di capire che cosa significa. L'irrilevanza è un po' sotto i nostri occhi. Noi sappiamo che in molte aree del mondo oggi assistiamo a una profonda crisi dell'esperienza cristiana. E tra queste aree del mondo ci siamo anche noi. Paesi che vengono considerati di antica tradizione cristiana, dove poi, ecco, forse con un po' di coraggio dovremmo anche cominciare a chiederci che cosa è rimasto del cristianesimo. E l'esperienza cristiana, così come l'abbiamo conosciuta nei decenni passati, nei secoli scorsi, è in crisi. Il cristianesimo ha perso la sua vitalità, ha perso il suo vigore, ha perso la sua forza di attrazione e sempre più progressivamente e anche trasversalmente, uomini, donne, giovani, ma anche non solo giovani, nella vita delle persone del nostro tempo l'esperienza della fede si trova in una condizione minoritaria, marginale o addirittura assente. Il dato visibile è che oggi la Chiesa è in crisi e al cuore delle comunità cristiane affiora un vistoso disagio. È un disagio che viene da lontano, che ha molteplici motivazioni e che si manifesta in molti modi. Semplicemente, se volessimo sintetizzare, poi le prospettive e le motivazioni sono tante, molte persone del nostro tempo faticano a integrare la parola liberante del Vangelo con le sfide quotidiane della loro vita. Tanti hanno abbandonato la fede per apatia, per indifferenza alla domanda su Dio, tanti si sono allontanati dalla Chiesa perché sono stati feriti o semplicemente perché non si ritrovano più. Il mio maestro, che mi ha guidato lungo gli studi, ha in uno dei suoi libri questa espressione che io ritrovo sempre molto attuale: molti linguaggi della Chiesa non hanno più parlato alle speranze e alle domande delle persone del nostro tempo. E tutto questo magari anche pur conservando un certo senso di Dio, un certo anelito di spiritualità. Sembra che Dio sia stato in qualche modo liquidato, che sia stato messo ai margini della vita e della società. E quindi l'immagine che, su cui ultimamente mi sono concentrato è stata proprio quella di un Dio che è ai confini, di un'inquietudine religiosa che si va spegnendo. È in tale contesto che viene definito contemporaneamente post-cristiano, ma anche post-ateo, perché non abbiamo più l'ateismo di qualche decennio fa. Perché, come diceva anche Bauman, in una società come la nostra sono venute meno tutte le grandi fedi, anche la fede nell'ateismo, che era una fede molto dogmatica, come sapete. E, ecco, noi possiamo fare nostre le parole di un teologo protestante del Novecento, Paul Tillich, che a un certo punto scrive: ciò che mi preoccupa più profondamente in questi ultimi anni è la questione. Il messaggio cristiano, e specialmente la predicazione cristiana, è ancora rilevante per le persone del nostro tempo? E se non lo è, qual è la causa? E ciò si riflette sul messaggio del cristianesimo stesso? Ecco, questo è un grande interrogativo che io credo noi non possiamo più eludere. Allora, i nostri interrogativi, anche i nostri interrogativi di questa mattina: come parlare di Dio nel tempo dell'assenza di Dio? Come cogliere oggi la rivelazione di Dio nel tempo della irrilevanza cristiana? È ancora possibile dire Dio in un mondo a cui è diventato estraneo e indifferente? La parola di Dio, che si è pienamente manifestata in Gesù, è ancora rilevante per le donne e gli uomini del nostro tempo e per la loro esistenza? Oppure tutte queste domande sintetizzate dalle parole di Karl Rahner, un grande teologo del Novecento: In fondo noi vogliamo soltanto riflettere su questa semplice domanda: che cos'è un cristiano? E perché oggi possiamo vivere questo essere cristiani con onestà intellettuale? Questa è la nostra, il nostro grande interrogativo. Prendere sul serio queste domande significa, ed è questo il primo passo che noi dobbiamo fare con un po' di coraggio, dico noi anche come comunità cristiana, come discepoli del Signore, significa anzitutto non negare la crisi che stiamo vivendo, ma al contrario interpretarla, e interpretarla come un passaggio decisivo della nostra storia, come un tempo opportuno, un kairos, si dice, no? Anche nel linguaggio teologico, ma anche biblico, cioè una possibilità per la trasformazione del cristianesimo. A questo proposito, un ex abate benedettino, Martin Werlen, in occasione dell'apertura dell'anno della fede, durante una conferenza che fu pubblicata poi con il titolo evocativo Fuoco sotto cenere, disse queste parole: anche dove la cenere è tanta, sotto può esserci ancora della brace e il fuoco può essere ravvivato. Anche nella Chiesa non dovremmo mai dimenticarlo. Qualche tempo dopo, quando lo intervistarono su questo piccolo libro, egli affermò: laddove qualcosa crolla, alla fine si trovano i carboni ardenti. Ecco, che cosa, la domanda nella domanda è, che cosa questa crisi nasconde? Quale lezione ci può dare? Come può farci cambiare? Questa è per noi una grande sfida, cercare senza stancarci e con speranza il fuoco ardente che è stato sommerso dalla cenere, quel Vangelo vivo che può rinascere proprio se qualcosa muore, cioè attraverso la crisi. E d'altra parte questo si iscrive nella logica evangelica: soltanto il chicco di grano che muore porta frutto. Non è facile questa lettura, io dico, adesso ci entrerò un po' meglio, lettura teologica della crisi. Lettura teologica della crisi significa cercare, essere invitati a cercare, a trovare la lezione nascosta, il messaggio che Dio stesso nella crisi ci vuole comunicare. Lettura teologica significa che in ogni crisi c'è una presenza di Dio. E in un suo libro più recente, padre Warlen afferma che ciò è molto difficile perché, vi leggo le sue parole, si è sempre tentati di tenere lucide le facciate, soprattutto quando dietro si nasconde del marcio. Lo sa anche la Chiesa, ma così si finisce in un mondo apparente. Le facciate impressionano dall'esterno, dietro però spesso regna il vuoto assoluto. Uno sguardo dietro le quinte porta molti a congedarsi dalla Chiesa. Per questo è importante che come Chiesa non ci specializziamo nella cura delle facciate, ma nella vita che vi sta dietro. E questa credo che è davvero anche la vostra grande scommessa, la vostra fatica, il vostro cammino. Sarà importante allora entrare con uno sguardo credente nella crisi e coglierla come un invito al cambiamento. La crisi infatti ci fa uscire dal consueto, dal rassicurante, dal ripetitivo, ci obbliga a prendere coscienza della realtà e a uscire dalle illusioni. O, come dice una scrittrice francese molto in gamba, Christiane Singer, che ha scritto un bel libro sul buon uso delle crisi: le crisi nella nostra vita arrivano per evitarci il peggio, e il peggio è una vita senza naufragi, senza passioni, senza brividi, una vita piatta. E le crisi invece ci sconvolgono, ci inquietano, mettono a soqquadro le nostre consuetudini. Papa Francesco ha affermato in un discorso di auguri alla Curia Romana per il Natale: sotto ogni crisi c'è sempre una giusta esigenza di aggiornamento e quindi di cambiamento. Più importante della crisi che stiamo vivendo, perciò, è la domanda con cui noi ci poniamo davanti alla crisi. Come stiamo davanti alla crisi? Come sta la nostra fede davanti alla crisi? Qual è il messaggio che la crisi porta con sé? Quale lezione possiamo imparare per la nostra relazione con Dio, il nostro modo, il nostro stile di essere Chiesa e la nostra spiritualità? Ecco, porsi queste domande significa anzitutto essere capaci di situarci lungo i confini, sulla frontiera, sulla soglia. Quello di cui abbiamo bisogno oggi, cioè, non è uno sguardo all'indietro, una ritirata, una difensiva, ma è uscire sulla soglia per affacciarci anche a questo mondo che in qualche modo ha confinato Dio all'irrilevanza. Abbiamo bisogno di una teologia che con ospitalità e con spirito critico stabilisce il proprio domicilio proprio presso la crisi di fede del nostro tempo. Un teologo tedesco che si chiama Vandenfels ha utilizzato questa bella immagine della soglia come un'immagine per la teologia fondamentale, che è appunto la disciplina che insegno, ma possiamo dire è un'immagine che può essere usata per il credente in generale, soprattutto di questi tempi, il credente come uno che sta sulla soglia. E Vandenfels scrive: chi sta sulla soglia si trova, per così dire, contemporaneamente dentro e fuori. Ode gli argomenti di coloro che stanno davanti alla porta, che sono tanti nostri amici e conoscenti che si sono allontanati dalla fede, e di coloro che sono in casa, che sono invece i nostri fratelli di fede. La cosa che però gli sta a cuore è l'ingresso nella casa. Da un lato fa suo quello che gli uomini di fuori sanno e vedono, nel campo della filosofia, delle scienze storiche e sociali, quel che essi pensano di Dio, di Gesù di Nazareth, della Chiesa, di se stessi, del mondo e della società in cui vivono. Dall'altro si presenta con il sapere che viene dal di dentro come un invito a tutti coloro che sono dentro e fuori. Vedete, abbiamo bisogno proprio di questo esercizio, no? Di ritrovare parole, forme, stili per riscoprire anzitutto noi e poi anche farlo riscoprire agli altri la bellezza del Vangelo. Questo stare sulla soglia, stare sul confine, ci fa considerare la bellezza del paradosso cristiano. Il cristianesimo è paradossale, su questo ha lavorato molto Henri de Lubac, un altro grande teologo francese del Novecento. Qual è il paradosso? Che da una parte Dio, noi diciamo, a volte non senza uno spirito di rassegnazione, è stato messo ai confini, è stato messo ai margini nel mondo occidentale. Ma dall'altra parte, il cristianesimo, la rivelazione cristiana, afferma che noi siamo situati proprio presso i confini, perché è la stessa rivelazione cristiana che ci porta lì. Il Dio di Gesù Cristo, che noi professiamo e in cui crediamo, è infatti il Dio che ha lasciato, tra virgolette, ha lasciato i cieli per varcare la soglia della storia, ha superato i confini. Oggi è la solennità della Trinità e non c'è forse parola, immagine migliore che quella di cui Papa Francesco poi, che Papa Francesco ha usato un po' come parola del suo pontificato, no? Uscire. Anche Dio è in uscita, esce da se stesso per comunicarsi, questo vuol dire Trinità, esce da se stesso perché è amore, l'amore non può stare soltanto presso di sé, ha bisogno di muoversi. Muovendosi Dio viene ai confini, supera i confini della stessa divinità. In questo San Paolo è eccezionale, no? Si è spogliato ed è divenuto uomo, è venuto ad abitare i confini della storia, i confini della nostra umanità, i confini più fragili della nostra esistenza, senza paura di sporcarsi le mani, senza restare distante per timore di perdere la sua divinità immacolata. Non è un Dio, uso una parola che a Papa Francesco piace molto, inamidato. No, è un Dio che si coinvolge, che è compassione, che si sporca le mani. Si è abbassato fino al punto più basso della nostra umanità ferita. Allora, un Dio che attraversa i confini, che supera i limiti, che abbatte le distanze, noi questo lo vediamo in Gesù, che abbatte le distanze culturali, sociali, politiche, etniche, che parla con le donne, si fa toccare dalle donne, e gli stessi discepoli si meravigliano che lui si intrattiene con una samaritana e si lascia incontrare dal lebbroso e pranza e cena con i peccatori, e la lista potrebbe essere davvero lunghissima. Ecco, è un Dio che in Gesù si fa prossimo e passa lungo i confini della nostra vita per sanare e beneficare, facendoci scoprire in questo modo, attenzione perché questo è importante per tenere davvero in piedi l'incarnazione, facendoci scoprire che ogni confine della nostra vita, ogni limite della nostra vita è anche una soglia che attraversata ci porta a Lui. Cioè, non vorrei, naturalmente so di parlare a persone che non la pensano così, ma ogni tanto anche tra noi cristiani c'è l'idea che anche questo venire di Dio nella carne di Gesù e questa guarigione profonda delle nostre ferite sia una specie di azione dall'alto. Cioè Dio, siccome è Dio, va bene, ci vuole bene, però cosa fa? Guarisce le nostre ferite, il nostro peccato, le nostre fragilità, e così ci rende delle persone nuove. Sì, detta così non è una cosa sbagliata, ma attenzione, perché il vero punto, cioè la vera rivoluzione in tutto questo, sta nel fatto che Dio quelle ferite le abita, per cui non le guarisce dall'esterno, ma le abita, è lì, e se è lì vuol dire che queste mie ferite, queste mie fragilità, finalmente non me ne devo vergognare. Perché quando le religioni installano e in qualche modo propagano, come posso dire, diffondono il senso di colpa, noi abbiamo tradito Dio nel peggiore dei modi e abbiamo posto le basi per l'ateismo di altri. Ecco, le nostre fragilità, i nostri confini sono presenza di Dio. È lì che Dio abita. È lì che Dio viene a dirmi: guarda, proprio qui tu sei amato. Dove sei vulnerabile, dove sei fragile, dove sei peccatore. Papa Francesco ama molto quel passaggio di San Paolo dove, e infatti se nei testi non lo si cita, quando c'è l'occasione lui lo dice a braccio, è un passaggio in cui San Paolo dice: si fece peccato. Ed è fortissimo questo, no? Perché noi sappiamo Dio è senza peccato, eccetera, però in Gesù, ecco, il confine è davvero sottile. Gesù ha preso sopra di sé il peccato, ma lo voglio ripetere, non dall'esterno, come una specie di supereroe che viene e risolve i problemi, ma in una condivisione che quasi prende il nostro peccato e lo assume. Si fece peccato, si fece trattare da peccato morendo sul legno della croce, proprio per dirci che lì Dio viene, non per dirci che lì siamo sbagliati. E questo non è chiaro, guardate che nel nostro cristianesimo non è molto chiaro. Allora, questo approccio teologico, che può e deve diventare anche una visione pastorale, ci invita a pensare Dio e a parlare di Dio in modo nuovo e incarnato, e quindi anche a tratteggiare un nuovo volto della Chiesa. Perché quando, apro e chiudo delle parentesi perché altrimenti ci dilunghiamo, ma quando si sente dire che la comunione sulla mano non va bene perché mettiamo Dio nelle nostre mani che non sono pulite, come se poi il nostro cuore fosse pulito, la nostra, non so cosa significhi pulito. Quando si sente parlare delle situazioni irregolari, io ogni tanto penso che noi come Chiesa non abbiamo chiarito, ecco perché è importante la teologia ed ecco perché, lo dico davvero senza retorica, vi ammiro, ma non abbiamo chiara la visione teologica. C'è un Dio che si abbassa fino al punto estremo delle nostre fragilità, con la compassione del buon samaritano che si prende cura delle nostre ferite, e noi che assumiamo uno stile e una forma che invece quasi dà agli altri l'idea che davanti a Dio bisogna presentarsi in un modo perfetto. E capite, parliamo di due Dii diversi, è un Dio diverso. Superare gli schemi tradizionali, oltrepassare i limiti di un cristianesimo convenzionale, inaugurare una nuova visione di Dio e di Chiesa. Questo è il punto, questo è ciò a cui l'idea di un Dio ai confini può suggerire. In questa prospettiva bisogna tenere presente il cambiamento della nostra epoca, in quella direzione che viene chiamata postmoderna. La postmodernità ha frantumato quelli che venivano chiamati i grandi racconti della nostra vita. I grandi racconti della nostra vita erano, visto che parlo anche a delle persone, insomma, non so come essere gentile, diciamo non più giovanissime, ecco, ma così per essere gentili, però così mi potete capire. I grandi racconti della nostra vita erano i grandi contenitori che davano a tutti noi una interpretazione del vivere che era quasi naturale, che veniva naturale. Erano i grandi contenitori. Lyotard, che è il filosofo francese che per primo ha parlato della condizione postmoderna nel 1979, li chiama appunto i grandi racconti. Non so, la famiglia, la chiesa, la scuola, lo Stato. Cioè noi venivamo al mondo e, insomma, non è che era tutto predefinito, chiaramente abbiamo vissuto la nostra vita, la nostra libertà, però siamo entrati dentro questi racconti che in qualche modo interpretavano la nostra vita, il nostro vissuto, ci davano una visione che non dovevamo trovare noi, non dovevamo inventare noi di giorno in giorno. Noi ci inserivamo con la nostra, certo, libertà, autonomia, fino a un certo punto, neanche tanto, però era indotto. Ecco, la postmodernità è l'avvento di un'epoca che da qualche decennio ha frantumato questi grandi racconti, le grandi verità. Ecco perché Bauman dice c'è crisi di grandi verità ovunque, la crisi della politica, la crisi dei partiti, la crisi della scuola, no? Le grandi istituzioni che veicolavano i grandi racconti sono in crisi, perché i grandi racconti sono stati frantumati a favore di che cosa? Della molteplicità delle prospettive, delle esperienze e delle visioni della vita. Ciascuno trova il proprio senso, il proprio significato, muovendosi all'interno di diverse esperienze e interpretazioni. La stessa esistenza umana è diventata sempre meno stabile, sempre più mobile. Io rimango impressionato anche quando parlo, devo dire che in questo le donne, in questo forse anche in altro, le donne superano gli uomini, no? Quando parlo con qualche mia amica, soprattutto qualche amica più giovane, quindi trentenne o anche meno, rimango impressionato di panorami di vita, cioè cambiano città, cambiano lavoro, cambiano... Io infatti ogni tanto scherzando dico non cambiate il partner così velocemente, perché dico noi non ci capiamo più niente. Ma è proprio, ecco, la vita è diventata un grande movimento, un andare, esplorare, viaggiare, percorrere sentieri diversi, alla ricerca di un significato, no? Non c'è una stabilità, ma non è un giudizio, è proprio una constatazione. Quello postmoderno, si dice, è un uomo che cammina senza mappe di orientamento, senza bussole predefinite, senza appellarsi a delle norme, a degli ideali, a delle istituzioni veritative. Ognuno vuole cercare la propria verità. L'uomo postmoderno è un viandante, e ha scritto Umberto Galimberti molto efficacemente, un viandante che aderisce di volta in volta ai paesaggi che incontra. Questo ci deve far riflettere, no? Perché la lettura della nostra epoca è sempre molto importante, io ogni tanto provo a dirlo così anche a qualche parroco, anche così nei contesti più pastorali, dico guardate che anche la crisi della vita matrimoniale, non so, della vocazione matrimoniale, anche della vocazione, delle vocazioni agli ordini sacri, eccetera, dipende molto da questo. Cioè noi continuiamo a percorrere dei registri, no? Facciamo la preghiera per le vocazioni, va bene, pregare va sempre bene, ma non ci rendiamo conto che oggi le persone con sempre più difficoltà sposano un progetto per tutta la vita. Ci sono quelli che lo fanno, per carità, però questo dipende non dal fatto che siano cattive o che siano meno credenti di ieri, dipende dal fatto che oggi viviamo in un'epoca dove piuttosto si tende, almeno fino a una certa età, a fare esperienze diverse, ad essere dei viandanti, dice Galimberti, che ogni volta che incontrano un paesaggio se ne innamorano. E quindi si cambia continuamente. Se noi non andiamo alla radice di quello che le persone oggi neanche pensano, vivono, perché sono figli di questa epoca, in parte lo siamo anche noi, o ci siamo entrati dentro, noi non riusciamo a rimodulare la proposta, per esempio dei corsi prematrimoniali, per esempio. Io dico sempre che in uno degli ultimi corsi prematrimoniali che ho fatto, poi... Come si fa con l'alcol, ho smesso di farli un po' di anni fa, ma in realtà guido un gruppo di famiglie che è nato proprio da lì, quando io nell'ultimo incontro abbiamo visto insieme il rito del matrimonio e poi ho fatto questa domanda, ho detto guardate, io vi vorrei salutare chiedendovi una cosa, che cos'è che vi spaventa di più a ridosso ormai del matrimonio? Si è creato un attimo di gelo e poi molti hanno risposto. Al numero uno delle risposte c'è stata questa, per tutta la vita. E io li ho guardati e ho detto, scusa, ma se siete innamorati non vuoi stare con la persona che ami per tutta la vita? E l'hanno detto con grande onestà, che io ho molto apprezzato, a volte anche tutte e due. No, dice, il per tutta la vita è... Allora, o noi entriamo nel fatto che le persone del nostro tempo questo confine, questa fragilità la vivono, e ripeto, non perché siano... più strani o più libertini, cioè non c'era dentro l'idea vabbè fin quando stiamo bene è così altrimenti poi ci lasciamo, no, lo dicevano anche con un senso di dispiacere, però dicevano onestamente questo un po' ci spaventa, non sono più abituate, perché in questa epoca si nasce diciamo così con altre visioni, si nasce e si cresce. Allora qualcuno ha affermato che il nostro tempo è il tempo del nomadismo identitario, cioè l'identità si costruisce attraverso questo essere nomadi, fare molte esperienze, viaggiare, camminare, provare, fare, ecco, appunto, cambiare molti panorami. E qualcuno ha anche affermato che il nostro secolo è il secolo nomade. Ora pensate, così mi riaggancio a quanto dicevo, pensate a come tutto questo abbia a che fare con il cristianesimo. Cioè noi diciamo questo nostro tempo, forse proprio perché è così, ha messo Dio ai confini, ha reso irrilevante la fede cristiana. Ma non sarà, e per questo dobbiamo interrogarci sulla crisi, che noi alcune radici e alcune dimensioni della fede cristiana le abbiamo perdute, perché il cristianesimo non è forse nomade. Lo ha scritto questo un teologo che sta per andare in pensione, Giuseppe Lorizio, ha scritto proprio delle pagine sul cristianesimo nomade. Abramo è la figura emblematica della nostra fede. Non era un uomo statico, era uno a cui Dio ha detto: parti, esci dalla tua terra. Questo verbo, no, che ritorna nel libro dell'Esodo fino al Magistero di Francesco. La storia biblica, l'alleanza, il patto di alleanza che Dio vuole stabilire col suo popolo, attesta il passaggio da un Dio immobile, distante, pensato come una stabilità metafisica, a un Dio che si mette in cammino verso l'uomo, chiedendogli di lasciare anch'egli la sua terra e di camminare nella storia. La storia del popolo di Israele è la storia di un popolo nomade che addirittura poi non atterra. Vedete, la storia di Gesù è la storia di uno che non ha dove posare il capo, un viandante, un nomade, un pellegrino. Allora, forse, è vero, è un tempo difficile, perché quando manca la stabilità, quando si frantumano i grandi racconti, quando sembra che le persone non accettino, ecco, di essere ancorate a delle strutture o a delle norme, a delle idee fisse, e chiaramente questo ci crea delle difficoltà. Ma forse ci crea delle difficoltà perché noi abbiamo inaugurato un cristianesimo e una chiesa statiche, fisse, predeterminate, con un'idea di Dio, con un sentiero prestabilito entro il quale, se sei dentro, sei dentro, se sei fuori non sappiamo che farci. Noi non abbiamo una pastorale nomade che va incontro ai perduti, ai lontani, ai perduti in senso evangelico, ecco, ai lontani, a chi è in crisi, a chi si pone delle domande, a chi è stato deluso da Dio, dalla fede, dalla Chiesa. Noi abbiamo una pastorale che, lo ha scritto molto bene Roberto Repole, nell'80% dei casi, cioè nell'80% della sua forza lavoro, impiega tutte le energie per chi è già credente, per chi c'è già. E però questo Gesù, no, è interessantissimo, che esce, inizia a predicare nella sinagoga, e poi se guardate i capitoli successivi, lì non viene accolto dai suoi compaesani, addirittura lo vogliono uccidere, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò, e a quel punto inizia a predicare i luoghi che non sono i luoghi sacri, non più nella sinagoga, ma lungo le strade, lungo il mare, dove poi chiama i pescatori, e poi nelle case dei peccatori. Cioè, vedete, è davvero un Dio in uscita, è nomade. Allora forse il nostro tempo nomade ha bisogno di strutture, forme, idee, parole della fede che siano più flessibili, che diano maggiormente alle persone la possibilità di entrarci, e di entrarci anche come vogliono loro. Proviamo a farlo questo esperimento, perché io capisco, nel senso che io posso parlare così, e poi però naturalmente viene il parroco e mi dice: sì, ma se io non faccio, qua dice, non si capisce più. Io capisco qual è la difficoltà. Però forse noi abbiamo bisogno, ecco perché sono convinto che sta lentamente nascendo anche un'altra chiesa. Io sono convinto che però dobbiamo fare uno sforzo in più nel cercare di rendere queste nostre prassi pastorali, queste nostre strutture, questo nostro modo di procedere più ospitale in senso largo, quindi più flessibile, e allora più adatto forse alle persone che vivono nel nostro tempo. Si tratta di immaginare un cristianesimo di carne, che Papa Francesco ha detto dal volto non rigido, spoglio della pretesa di avere una risposta su tutto, è piuttosto capace di accompagnare, ascoltare, benedire, suscitare l'inquietudine della ricerca, aiutare l'attraversamento dei luoghi della vita, offrendo appunto delle letture. D'altra parte, questo è ciò che ci viene suggerito dall'evento cristiano per eccellenza, cioè dalla vicenda di Gesù, che rappresenta una vera e propria rottura, per qualcuno anche una rottura vera, per gli scribi e farisei è stato proprio terribile. Ma la vicenda di Gesù è un dislocamento, è un invito a uscire dai confini di una religiosità angusta che imprigiona Dio e mortifica l'uomo. E quando Gesù inizia la sua missione, proclama le beatitudini, tocca gli ammalati, pranza con i peccatori, preferisce i samaritani ai devoti, rompe gli argini. È dirompente. Avevo un professore in gregoriana che diceva: noi continuiamo a dire che Gesù è innocente, però un po' la morte se l'è cercata. Non è così innocente. Se fosse stato proprio innocente l'avrebbero risparmiato, uno che non disturba nessuno. E invece questo Gesù è dirompente, inaugura una trasgressione, guarisce di sabato per dire: guardate che voi date il culto a un Dio che uccide l'uomo. E questo non è Dio, è un'altra cosa. E allora addirittura trasgredisce la legge, rimette in discussione, perfino con una notevole dose di ironia, le maschere dell'ipocrisia. Come? Sapete dire quando piove, quando non piove, guardando le nuvole, e non sapete? C'è un'ironia nelle parole di Gesù. E anche il moralismo ottuso di una certa religiosità. Pierangelo Sequeri scrive questa cosa molto accattivante: la parola di Dio pronunciata da Gesù congeda l'adultera e denuncia i suoi lapidatori. Vedete che trasgressione, no? Noi, anche quando interpretiamo i fatti della nostra società, noi la pietra sempre contro l'adultera. Sapete quanti cristiani e cristiane ascolto che: ma quella cosa lì, ci vorrebbe la pena di morte, ci vorrebbe... Capite? Incredibile che uno si chiede: ma allora tutte queste messe che celebriamo cosa hanno portato nella nostra vita? Congeda l'adultera e denuncia i suoi lapidatori, radicalizza e alleggerisce la legge di Mosè a favore delle donne. Il gesto di Dio eseguito da Gesù libera dal male, non solleva pietre contro il lebbroso, ma leva la frusta contro i mercanti del Tempio, perdona i peccati e infrange il sabato, promette l'inferno a chi dice stupido, però si fa baciare da una peccatrice. E vedete, Gesù è talmente affascinante e dirompente che io penso che se davvero lo prendessimo sul serio, la nostra non sarebbe una fede ai confini. Gesù trasgredisce e supera il limite imposto dalla religione, che spesso, preoccupata dell'osservanza dei precetti, trascura l'amore verso l'uomo, e lo fa fino a vivere l'esperienza limite per eccellenza, cioè la morte di croce. Muore anche fuori dai confini, no? Fuori dalla città. Allora ci serve questa teologia di frontiera per annunciare nuovamente e in modo nuovo il Dio di Gesù. E dunque, in questa ultima parte della nostra chiacchierata, io vorrei farmi con voi questa domanda: quali sono i confini che noi oggi dobbiamo attraversare per dire Dio in modo nuovo nel nostro tempo? Apro delle finestre su grandi temi, naturalmente sono delle provocazioni, con la raccomandazione che naturalmente andranno un po' anche poi approfonditi. Primo confine, questo un po' più teorico, intellettuale, poi ma ci saranno altri passaggi magari un po' più pratici. Il primo è interpretare la secolarizzazione. Noi tutti, diciamo, viviamo nel tempo della secolarizzazione, in un tempo ormai secolarizzato, eccetera. Nonostante un certo ritorno della religione, perché guardate che Dio è ai confini, in modo particolare il Dio personale, il Dio di Gesù, ma il revival delle religioni invece è attivissimo. Le religioni sono ritornate prepotentemente sulla scena. Non è un caso, no, che la spiritualità oggi coinvolge tantissime persone con le tecniche, le vie, gli strumenti più variegati. Noi siamo arrivati qui e c'è un corso, c'è un gruppo di persone che fa lo yoga. Ecco, questo è molto, no, in America ci sono tantissimi gruppi di preghiera, gruppi cristiani, semicristiani, gruppi che uniscono il cristianesimo con le tecniche appunto della filosofia orientale, spiritualità mistica, eccetera, eccetera. Ma l'orizzonte in cui ci muoviamo certamente è quello di un'epoca secolare. Il più grande studioso della secolarizzazione, Charles Taylor, filosofo teologo canadese, dice che però bisogna chiedersi in che cosa consista questa secolarità. Molto spesso, infatti, noi siamo prigionieri di una lettura sociologica del fenomeno che legge la secolarizzazione in termini numerici. E quando noi leggiamo le cose in termini numerici, con alcuni di voi scambiavamo qualche battuta già ieri sera, cominciamo a dire che la gente frequenta di meno, che le vocazioni non ci sono più. Vedete, parliamo di numeri. Il criterio numerico in genere fa riferimento alla perdita della rilevanza sociale, politica e pubblica della fede. Da questo punto di vista, se adottiamo questo criterio, certamente siamo irrilevanti. Ma questo approccio, dice Taylor, che ha scritto un'opera su questo che si chiama A Secular Age, l'età secolare, di 1000 pagine, quindi vi lascio immaginare che come ha studiato il tema. Questo approccio sociologico è riduttivo perché si sofferma sul piano dei cambiamenti visibili, anche quelli della società. I cambiamenti visibili ci dicono che in chiesa prima frequentava il 20%, adesso siamo scesi per esempio al 12%. Ma non riesce ad andare oltre e a cogliere ciò che la secolarizzazione ha prodotto in un mondo più profondo, che è quello della interiorità, cioè nella sensibilità spirituale dei nostri contemporanei. Nella sua prestigiosa opera, Taylor afferma che bisogna riflettere sulle condizioni interiori di possibilità della fede. Ciò che è cambiato, dice lui, sono le condizioni di credibilità, cioè ciò che rende possibile o impossibile il credere. E ieri sera, no, ascoltavo anche dei piccoli aneddoti del catechismo, che sono tragici però, perché creano le condizioni per non credere. Capite? Se io a un ragazzo di oggi che studia parlo di Adamo ed Eva in un certo modo, mi dirà: vabbè, questa favola tenetevela voi perché è una favoletta. Allora Taylor dice: noi dobbiamo andare alle condizioni di credibilità, cosa rende credibile o non credibile la nostra fede. E Taylor lo chiama, tutto questo, il contesto di comprensione entro cui avvengono la nostra esperienza di ricerca morale, spirituale o religiosa, il contesto di comprensione. Questo è molto interessante, richiama anche un po' il cardinale Newman. Che cos'è questo contesto di comprensione? Provo a tradurlo così: lo sfondo implicito, il mondo interiore in cui ciascuno di noi rivolge la propria ricerca di senso, che non è naturalmente indipendente dalla famiglia in cui siamo nati, cresciamo, dal contesto, dalla parrocchia che frequento, dalle persone che incontro, dall'aula del catechismo, dalle immagini che vedo, no? Dalle parole che sento. Il contesto di comprensione entro cui io rivolgo la mia ricerca spirituale. Ognuno di noi cerca il proprio senso, una vita piena, e questa ricerca va in una direzione oppure in un'altra, Newman diceva, a seconda di molte probabilità, diceva lui, ma le probabilità sono appunto queste esperienze della vita, no? E quindi lui diceva, questo è un mondo antecedente al credere, lo chiamava lui. E Newman era in questo, è stato un pioniere, pensate alla fine dell'Ottocento, diceva, guardate che questo mondo antecedente, lì si radicano le nostre idee, i nostri pregiudizi, le nostre, e quello determina molto spesso se possiamo poi aprirci alla fede oppure no, perché da questo contesto si capisce un po' la direzione che prenderà la nostra ricerca. Tant'è vero che in uno dei suoi sermoni lui fa questo esempio molto calzante, dice, succede un incidente per la strada, me lo vengono a dire, io non andrò, no, nessuno di noi ha la possibilità di fare questo per molte cose della vita, non andrò sul luogo a soppesare tutti i dettagli dell'incidente e di come è successo e della dinamica e di come sta quella persona facendo le analisi del sangue della persona che è sulla strada. O ci devo credere che è successo o non ci devo credere. Ma quel credere dipende da questo mondo antecedente. Per esempio, se me lo viene a dire una persona che solitamente racconta delle balle, io sarò portato a non crederci, no? E così via. E fa una serie di esempi per dire alla teologia della sua epoca, è inutile andare con delle prove esterne alla vita dell'uomo. Anche chi ha visto i miracoli di Gesù spesso non si è convertito. E hanno detto, costui compie dei segni in nome di Belzebù. Chi non ha occhi non vede, anche se vede. Allora, ecco, Taylor dice, c'è questo mondo interiore che dobbiamo guardare bene, non la visibilità, la perdita della rilevanza, il fatto che i preti sono sempre di meno, quello è l'aspetto visibile, l'aspetto, diciamo così, sociologico, no? Della vita della Chiesa, ma c'è qualcosa di più profondo su cui noi dobbiamo interrogarci. Ecco, Taylor cerca di spostare il dibattito sulla secolarizzazione dagli aspetti esterni a quelli più interiori e profondi, che riguardano che cosa? Il nostro immaginario. Cioè la fede, ma anche la non fede, hanno più a che fare con i nostri desideri nascosti, con le nostre speranze profonde e quindi con i modi in cui immaginiamo la nostra vita, che non con delle idee, con dei concetti. Volete la prova schiacciante di tutto questo? I concetti e le idee e le informazioni al catechismo sono perfetti. Ti insegnano chi è Dio, i bambini imparano, fanno la prima comunione, poi arrivano, qualcuno arriva anche alla cresima, ma tutto questo non ha parlato al loro desiderio profondo, al loro modo di immaginare la vita. I concetti possono essere chiari, ma non basta. L'intellettualizzazione della fede non risolve, non fa discepoli. Casomai può aiutare dopo a sistemare un po' di idee, ma non fa i discepoli. No? I discepoli nel Vangelo Gesù li fa dicendo loro venite e vedrete, quindi facendo una esperienza, non insegnando. Allora, i modi in cui immaginiamo la nostra vita, se le persone immaginando la loro vita non trovano che questa cosa abbia a che fare con il Vangelo, ma perché dovrebbero credere? Che questa cosa non ha a che fare con Dio. E questo è il punto nodale della crisi. I linguaggi e i simboli della fede cristiana sono percepiti come vecchi, irreali, in certi casi oppressivi, contrari alla libertà, alla realizzazione umana, al modo con cui l'uomo contemporaneo immagina, pensa, sogna e realizza la propria vita. E qui c'è un gap. Che non è solo naturalmente di comunicazione, non è solo di linguaggio, implica tante, tante cose. Allora la sfida è verificare, rivedere quelle forme e quei linguaggi tradizionali della fede. Mentre infatti si decompongono alcune forme religiose, il cristianesimo può cercare e immaginare nuove forme. L'abbiamo fatto lungo tutti i secoli della nostra storia. Nuovi modi di esistere, nuove incarnazioni della fede, dice Taylor, e della spiritualità. In questo senso, i processi, la fine della cristianità e i processi della secolarizzazione non segnano la fine del cristianesimo, ma possono rappresentare l'inizio del suo cambiamento, la sua trasfigurazione, dice Thomas Halyk, questo teologo ceco che della Repubblica Ceca, che ha scritto questo bel testo, Pomeriggio del cristianesimo. E questo è un primo approccio, perché a me sembra, ecco, per fare appunto degli esempi concreti, e non, a me sembra che noi ragioniamo ancora sul criterio sociologico. Mancano i preti, che facciamo? Uniamo le parrocchie, mettiamo due preti insieme, gli diamo quattro parrocchie, invece di quattro preti ne abbiamo fatto il guadagno, con tutto un mondo che continua ad andare, no? Perché non diciamo, mancano i preti, ma tanto adesso ci arrivo, per dire, no? Perché Taylor dice nuove forme di incarnazione, perché non immaginiamo un altro modo di vivere nelle nostre comunità, di guidare le comunità, no? E allora lì le cose possono cambiare, alcune cose muoiono per darci la possibilità di farne nascere di altre, no? Perché non immaginare un nuovo modo di essere presenti, invece che essere concentrati sul criterio numerico? I numeri che non ci sono più ci suggeriscono anche nuove modalità. Ecco, questo vale anche per i praticanti, no? Praticanti, non praticanti. Ma quante persone possono avere un contatto con Dio senza essere praticanti della domenica? Forse tante, ma noi come le aiutiamo? Che tipo di idea, di pastorale, no? Durante la pandemia sono nate esperienze interessantissime, a Firenze Serena Noceti con alcuni preti hanno preparato questi foglietti, questi foglietti sulla parola di Dio, così per permettere alle famiglie di celebrare in casa, anche suggerendo qualche segno, una candela accesa, un'altra cosa. Finita la pandemia, primo grande problema delle parrocchie: quando facciamo le comunioni? Quando riprendiamo, al nord siete più fortunati, ma io che vengo dal sud su queste cose mi arrabbio molto, quando riprendiamo la processione del Santo Patrono? Forse quell'esperienza lì aiuta qualcuno che in chiesa non si sente di venire, che ha smesso di venire, poi le motivazioni possono essere tante, a mantenere un legame con Dio. Allora la perdita numerica può suggerirci creativamente altre modalità. Seconda questione, ma la conoscete già perché probabilmente ve ne ho già parlato in passato, è ripensare Dio, perché il cambiamento deve interessare anche il modo in cui noi parliamo di Dio e lo presentiamo. Un teologo tedesco, peraltro morto non tanto tempo fa, Metz, dice: la crisi è divenuta crisi di Dio. Crisi di Dio non riguarda qualche aspetto, riguarda anche Dio stesso. Immersi in questo clima dell'assenza di Dio, in cui non ci sono più neanche i grandi ateismi, è diventato banale anche l'ateismo, che può avere Dio sulla bocca senza riferirsi veramente a Lui. Ecco, noi abbiamo bisogno di un cristianesimo che prova nuove concettualità, nuovi linguaggi, nuovi approcci alla questione di Dio. Proprio per riferirci a questo strato più interiore della nostra vita, che Newman chiama le disposizioni interiori e che Taylor dice il contesto entro cui matura la nostra ricerca di senso e di immaginare la nostra vita, ecco, l'ateismo ha raggiunto anche quello strato profondo della coscienza e dell'immaginazione dell'uomo. Non si nutre più di simboli, non ha più dei partiti politici, non porta più delle battaglie filosofiche contro Dio. Ha ormai Metz dice c'è una secolarizzazione della coscienza, ha ormai invaso senza fare rumore il luogo più interiore, laddove noi appunto immaginiamo la nostra vita, e quando la immagini senza Dio, quello è l'ateismo, non è... no, ci sono atei che non sanno neanche chi è Marx, tantomeno Nietzsche, però vivono la loro vita comunque da atei o comunque diciamo senza un riferimento a Dio. Occorre chiedersi però quanto tutto questo dipenda anche dal fatto che i naturali linguaggi della Chiesa e le immagini di Dio veicolate dall'universo religioso non risvegliano desideri, speranze, possibilità per immaginare una vita diversamente. Diceva un mio professore, lo scriveva anche in un suo testo, e l'ho ascoltato dopo tanti anni, perché è andato in pensione, poi è ritornato in Italia per fare una lezione pochi giorni fa, e diceva: il cristianesimo come un motivo per la vita. Ma mi è sempre piaciuta questa parola, no? Motivante, un cristianesimo motivante, che motiva la vita. No, se c'è qualche comunità parrocchiale, qualche esperienza che fa passare il cristianesimo così, per favore poi ditemelo, perché purtroppo in generale l'impressione che abbiamo, anche noi che frequentiamo, è un po' diversa. Ecco, anche questo rimane oggi un punto fondamentale, considerare come il rifiuto di Dio o l'indifferenza alla domanda su Dio dipende anche da un'immagine distorta che il cristianesimo e le religioni ne hanno fatto, e quindi si tratta di farsi carico delle crisi di Dio che accadono nella vita dei nostri contemporanei, non senza la responsabilità delle parole e dei gesti cristiani. Dopo tutto questo lavoro sulle immagini di Dio e il mio testo non è quel che credi, eccetera eccetera, io durante la pandemia ho ascoltato delle cose terribili, terribili. Da parte, c'è stato un universo cristiano, soprattutto negli Stati Uniti, che ha delirato, cioè questo è un castigo che Dio ci sta mandando perché non so, ecco, capite bene che abbiamo molto lavoro. Questo compito della teologia, liberare Dio dalle false immagini e rappresentazioni di Lui, può avere degli esiti positivi soltanto se si riparte da Gesù, perché è Lui che ce lo ha rivelato. Quando ci si accosta a Gesù, infatti, ci si accorge, come scriveva molto bene Schillebecks, che tutte le nostre immagini di Dio sono prodotti e proiezioni umani, che come tali non sono in grado di descrivere la realtà divina. A partire dalla sua realtà, tutte le nostre immagini proiettate su Dio vengono rigettate e invalidate. Per dei fedeli che operano, c'è differenza se Dio lo sperimentiamo come un liberatore oppure come un pantocratore che conserva l'ordine esistente. Ecco, a partire da Gesù e in particolare dalla sua morte di croce, noi abbiamo uno shock teologico che in qualche modo mette in crisi le umane rappresentazioni di Dio e che non ci permette più di parlare di Dio in un certo modo, in un senso metafisico, come un Dio assolutista, monarchico, impassibile. Noi possiamo parlare di Dio solo a partire dalla debolezza, perché nella debolezza dell'amore Dio si svela. Questo è il mistero di Gesù. Allora possiamo chiederci con il teologo olandese Utepen: potrebbe essere mai possibile che proprio l'immagine effettiva di Dio che si è prodotta nella cultura occidentale sia una delle cause del commiato da Dio? E se così fosse, il ruolo salutare della teologia consiste proprio nel liberare queste immagini di Dio radicate nelle loro incrostazioni, per far sperimentare di nuovo la domanda su Dio come una domanda aperta. Questo teologo ha scritto un libro che si chiama proprio così, Dio, una domanda aperta, cioè come un'avventura, una ricerca, un viaggio dell'anima. Un terzo confine, terza finestra che vorrei aprire è immaginare una Chiesa sinodale. Se noi ripensiamo alla secolarizzazione nei termini in cui abbiamo parlato e ci interroghiamo sulle false immagini di Dio per tornare al Dio di Gesù, noi dobbiamo farci una domanda seria anche sulla Chiesa. Quale stile di Chiesa oggi e come può essere pensata la Chiesa del futuro? Se la Chiesa è chiamata ad essere un segno del regno di Dio proclamato da Gesù e quindi segno di un Dio amore che in Cristo si è fatto prossimo ad ogni uomo nella compassione e nella misericordia, ciò significa che le relazioni all'interno della comunità cristiana, di conseguenza anche quelle all'esterno, devono essere improntate alla fraternità e alla comunione, alla ospitalità. E questo che cosa esige però, perché non rimanga uno slogan? Delle cose concrete, come il riconoscimento della dignità di ogni credente, la partecipazione alla missione della Chiesa da parte di ogni battezzato, la sottomissione di tutte le differenze gerarchiche al servizio dell'unica missione e dell'unico Signore. E su questo, sapete, c'è grande fermento, grande anche passi in avanti, grandi domande, interrogative, una grande spinta da parte di Papa Francesco, ma il lavoro è ancora molto. Il lavoro è ancora tanto. Viceversa, una Chiesa la quale trasmetta la sua verità, la libertà liberante di Gesù Cristo, con delle strutture di tipo autoritario, al tempo stesso nasconde questa verità agli occhi dei suoi fedeli e assume i connotati di una istituzione astratta e repellente. Questo ha scritto Schillebecs qualche decennio fa, qualche anno fa. E che in questo senso la forma sinodale della Chiesa non è un espediente politico organizzativo. Dice, vabbè, adesso è tempo del sinodo, a Papa Francesco piace questa cosa, facciamo il sinodo. No, è la realtà che esprime al meglio la natura della Chiesa. La Chiesa o è sinodale oppure non è. O tutti hanno voce nella Chiesa, o tutti possono partecipare, oppure non è la comunità dei seguaci di Gesù, dei discepoli di Gesù. È l'unica forma possibile perché la Chiesa sia realmente popolo di Dio. Per questo Papa Francesco dice: il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Il sinodo deve però, perché io ho sempre timore di queste cose, perché noi siamo molto bravi a farle diventare degli eventi, degli slogan, poi però, no? Allora, il sinodo deve promuovere il cambiamento anche di certe nostre strutture. Adesso sapete che al sinodo dei vescovi, cioè proprio poi l'assemblea sinodale che si farà a Roma, a me sembra anche brutto dirlo, per la prima volta Papa Francesco ha inserito 40 donne e con il diritto di voto. Allora capite bene che se le donne nelle elezioni pubbliche, politiche, votano, non so da quanto tempo, da molto tempo però, e nella Chiesa ancora fa notizia una cosa del genere, no? Allora il mio amico Armando Matteo ha ragione quando dice, riportando dei dati, già di qualche anno fa, ha scritto questo libretto La fuga delle quarantenni, le donne stanno scappando dalla Chiesa, perché le donne di oggi vivono già in un contesto di emancipazione, di autodeterminazione, di libertà, eccetera, eccetera. Da noi fa rumore, fa notizia il fatto che Papa Francesco ha scelto 40 donne e votano pure, capite? Cioè, siamo proprio, è allucinante questo. Allora, cambiare le strutture, perché la struttura, per esempio, del sinodo, diceva che il sinodo è solo dei vescovi e dei periti che sono invitati lì. La struttura, farò altri esempi, ma insomma, per dire che o noi cambiamo le prassi, oppure concretamente, oppure le nostre rimangono delle belle idee. Ecco, la struttura, per esempio, dei ministeri istituiti, il lettorato, l'accolita, cioè noi abbiamo il 90% delle parrocchie, la domenica celebriamo le messe, le donne vanno a proclamare la parola di Dio più degli uomini, anche perché numericamente sono molto più degli uomini. il lettorato e l'accolitato poteva essere dato soltanto a dei maschi. Questa struttura è stata cambiata con tanto di decreto, cioè con una lettera del Papa, ha detto questa cosa non va più bene. E adesso, allora, noi dobbiamo cambiare le strutture in senso sinodale. Questo non riguarda solo la questione uomo-donna, riguarda tante altre questioni, chierici e laici, religiose e religiosi, cioè tante intrarelazioni ecclesiali. Dunque, il sinodo, promuovendo strutture della vita ecclesiale in senso sinodale, deve produrre una forma di chiesa che possa adeguatamente rappresentare il dinamismo della sua missione, lo stile che è chiamata ad assumere nel mondo, in modo che appaia come uno spazio dove, come un luogo dove può trovare spazio la vita concreta delle persone, laddove esse sono, come esse vivono, dentro la cultura in cui esistono, all'interno delle miserie da cui è contrassegnata la loro esistenza, compresa quella miseria disumanizzante data dal peccato. E questo è Roberto Repole, che ha scritto Ripensare la Chiesa alla luce di Evangelii Gaudium. Ecco, una chiesa che incarni questo stile di ospitalità, che promuova l'arte dell'incontro e delle relazioni, che renda accessibili i linguaggi della fede, che sia creativa nell'annuncio del Vangelo. E questo è un terzo grande nostro impegno. Il quarto e il quinto, e poi chiudo. Quarto passaggio, quarto confine, lo chiamo così: tornare alle formule brevi della fede. Ne ho scritto nell'ultimo mio libro, riprendendo un'intuizione che non è mia, ma è appunto di Karl Rahner, questo grande teologo del Novecento. E cioè, un'altra grande lezione che noi possiamo imparare nel tempo della crisi, questo vale anche per tante crisi della nostra vita, no? Le crisi a volte ci riducono all'essenziale, ci spogliano, proprio perché ci mettono con le spalle al muro. Allora uno comincia a togliere via degli orpelli e a dire, ma no? A che serve? Ecco, nel tempo della crisi occorre spogliarsi e ritornare all'essenziale. Noi abbiamo anche un sentimento di stanchezza, ma anche perché abbiamo una tradizione cristiana con una ricchezza spirituale e dottrinale che lunghi secoli si è accumulata ed è diventata tantissima. È un prezioso patrimonio a cui attingere, però in prima battuta, dinanzi all'esaurimento delle risorse cristiane nella coscienza dell'uomo contemporaneo e al dilagante analfabetismo biblico e religioso, oggi occorre scegliere una pedagogia che non può essere quella di riversare immediatamente tutto il patrimonio del cristianesimo. Cioè, vuoi diventare credente, ti vuoi avvicinare a noi, allora i comandamenti e questa e quella. Ci sono, il Concilio le aveva ben definite, le gerarchie, c'è la gerarchia delle verità. Che cos'è importante credere? Ricordiamoci di Paolo e del primo annuncio, l'annuncio del Kerigma. Sei amato e per questo amore Dio è venuto ed è venuto in Gesù e ti ha donato la vita e rimane con te, e questa vita è più forte della morte, punto. Poi tutte le altre cose. Quando Papa Francesco efficacemente ha parlato dell'ospedale da campo, ha detto, se andate a riprendervi l'intervista, non è che uno ha un incidente per la strada e io lì gli faccio tutte le analisi del sangue, gli faccio la diagnosi, io lì devo curare la ferita, poi dopo. Allora, a chi, all'uomo del nostro tempo che è ferito, che porta dentro di sé la ferita anche semplicemente del desiderio, no? Di una vita piena, di una vita oltre la morte, della felicità, e poi la ferita del peccato e poi tante altre cose, noi dobbiamo dare il primo annuncio. Tornare all'essenziale, noi dobbiamo ritornare al primo annuncio, che guarda caso è quello che manca nella nostra pastorale, perché come dicevo, quando si entra devi già in qualche modo credere, perché se no nessuno ti spiega, nessuno ti dice chi è Gesù. Non c'è neanche nelle nostre chiese, nella nostra pastorale, una modalità per imparare a pregare. non esiste. Tu entri e trovi già quelli che stanno dicendo il rosario, c'è già la messa con l'incenso, c'è già, quindi o già sei, oppure ti senti estraneo. Ecco, la pedagogia che noi dobbiamo utilizzare è quella di Emmaus: affiancarci, accompagnare, ascoltare e poi proporre un primo annuncio semplice, diretto, che tocchi la vita e che faccia ardere il cuore. Si commetterebbe un errore, intanto proprio pedagogicamente, qualora si pretendesse di riversare sul nostro destinatario di oggi, quasi in un solo colpo, tutto l'insieme di parole, di norme, di riti, di dottrine, di usi e di costumi del cristianesimo. E questa è una grande difficoltà che noi abbiamo, perché noi partiamo dal tutto, no? Invece che, allora, vedete la questione dell'Eucaristia ai divorziati risposati e non so a chi altro. Noi partiamo dal tutto, cioè siccome a te manca questo, non puoi accedere. Noi non partiamo invece dal fatto che il tutto è dalla parte di Dio e le persone arrivano ciascuno col proprio vissuto, con il poco. Allora, chi arriva con molto poco dovrebbe starci più a cuore, no? Perché Gesù va a cercare proprio quelle persone nel Vangelo e allora dobbiamo in qualche modo incontrare queste persone e andare, non possiamo porre antecedentemente un divieto, perché se noi cominciamo a dire, a usare questo criterio, vuol dire che tutti quelli che non sono a posto, sapete, non dovremmo accedere nessuno, Ecco, noi rovesciando tutta questa mole anche di pretesa cristiana, non permettiamo a chi parte da zero, cioè è come se uno deve fare appunto l'atleta, però lo mettiamo subito, nella prima gara deve fare 200 chilometri, non si iscriverà, non parteciperà, perché dice: come li faccio? Bisogna che prima faccia gli allenamenti e poi faccia delle gare più brevi e poi, no? Ecco, per chi è lontano non possiamo partire con il tutto. Per aprire una via di accesso semplice e coinvolgente, Rahner diceva: dobbiamo trovare delle formule brevi della fede, cioè formule che con la loro immediatezza creano un'apertura al mistero di Dio, si imprimono nel cuore e aiutano a recepire l'essenziale. Il resto, dice Gesù, verrà. Il regno vi sarà dato poi in abbondanza. Non andare a vedere se non tutte le domeniche viene a messa, però c'ha questa relazione con... Aspetta, primo annuncio, tocchiamo il cuore, apriamo un varco, creiamo un dialogo, poi dopo le persone fanno il loro cammino, perché se ci aspettiamo che le persone vengano già belle preparate, secondo la nostra idea di cristianesimo, non ne avremo neanche una. E si tratta di formule brevi che dovrebbero ridestare e risvegliare qualcosa, mostrare che la relazione con Dio è una premessa e una promessa di vita buona, che la fede ha a che fare con la vita, che può interpretarne i sentieri, i momenti faticosi, che il Dio di Gesù è il Dio che si prende cura della nostra umanità, che può allargare la nostra esistenza. Rahner affermava che spesso nell'annunciare la fede noi non riusciamo a colpire nel segno, siamo noiosi, abbiamo come chiesa un eccesso di esteriorità, non riusciamo a far sentire agli uomini del nostro tempo che la chiesa è la loro patria. E guardate che cosa aggiungeva: il nucleo vero e proprio del messaggio della fede, che sarebbe un annuncio lieto e non un sistema complicato di imposizioni morali, potrebbe essere trasmesso in maniera assai più viva, gioiosa e coraggiosa. Occorre dare alle norme morali il giusto peso, senza abbandonarle o tacerle. Ma quello che importa è trasmettere l'annuncio di Gesù sul potente avvento del regno di Dio e la comunicazione che Dio fa di sé nella sua gloria in maniera molto più viva, allegra e vorrei dire divertente di quanto avviene tanto spesso nella nostra prassi pastorale così asprigna. Questo è confessare la fede nel tempo dell'attesa. Capite? È seria la questione. Ecco, liberare l'esperienza fondamentale della fede con delle formule brevi che facciano vedere nel Dio di Gesù un sentiero per la nostra felicità. E quinta e ultima cosa, che potrebbe essere un po' riassuntiva, è questa: liberare il cristianesimo, perché tutto questo va nella direzione di una liberazione. Liberare il cristianesimo, un cristianesimo che oggi è andato in frantumi, come afferma Michel Desertot. Questa oggi per noi è l'occasione di rendere il cristianesimo più secolare, più laico, più aperto, motivante, includente, plurale, ospitale, accogliente. E si tratta di uscire da un cristianesimo del quale Henri de Lubac ha scritto queste parole taglienti: un cristianesimo che cade nel formalismo e nell'abitudine. Così come noi lo pratichiamo e come anzitutto lo pensiamo, è una religione debole, inefficace, religione di cerimonie e di devozioni, di ornamenti e di consolazioni volgari, talvolta perfino senza sincerità, senza presa reale sull'attività umana. Religione che sta fuori dalla vita e che mette noi stessi fuori di essa. Ecco ciò che è diventato nelle nostre mani il Vangelo. Ecco come è finita questa immensa speranza che si era levata sul mondo. Un cristianesimo clericale, un cristianesimo formalista, un cristianesimo spento e indurito. Pensate, Henri de Lubac lo ha scritto nel 1946. Il dramma dell'umanesimo ateo. Quindi, voglio dire, e noi stiamo qui ancora, no, a ripeterci queste parole. Allora ci chiediamo: come può, è la domanda di Radcliffe, ex generale dei Domenicani, come può il cristianesimo attirare l'immaginazione dei nostri contemporanei? La sfida è ardua e ci chiede di riorganizzare tutte le risorse dell'annuncio, le visioni teologiche, gli stili di cristianesimo, le prassi ecclesiali, i linguaggi, le azioni pastorali. Tutto dovrebbe essere orientato alla liberazione del cristianesimo da tutto ciò che lo ha contrapposto alla vita e ne ha diffuso l'immagine di una religione esteriore fondata sull'adempimento dei doveri morali. In questo desolato deserto della crisi della fede, il Signore può rigenerare la terra e ancora ci convoca per fare pulsare la vita dentro di noi. Come afferma Papa Francesco, è urgente discernere e trovare il battito dello Spirito per dare impulso a dinamiche che possano testimoniare e canalizzare la vita nuova che il Signore vuole generare in questo momento concreto della storia. Questo è il tempo favorevole del Signore, vedete la lettura di Papa Francesco, tempo favorevole che ci chiede di non conformarci né accontentarci e tantomeno di giustificarci con logiche sostitutive o palliative che impediscono di sostenere l'impatto e le gravi conseguenze di ciò che stiamo vivendo. Questo è il tempo propizio per trovare il coraggio di una nuova immaginazione del possibile, con il realismo che solo il Vangelo può offrire. Lo Spirito, che non si lascia rinchiudere né strumentalizzare con schemi, modalità e strutture fisse o caduche, ci propone di unirci al suo movimento, capace di fare nuove tutte le cose. Ecco, il coraggio di una nuova immaginazione del possibile, molto bella questa espressione di Papa Francesco, oltre una religiosità ridotta a credenza, è una chiesa paralizzata dalla routine, dalle abitudini, dal tradizionalismo. Ecco, questo è il compito che ci è affidato in questo momento storico e che dobbiamo portare avanti per una nuova immagine non soltanto di Dio ma anche di chiesa e di cristianesimo. E l'impegno, lo sintetizzo concludendo con queste parole di Pagola, questo teologo spagnolo che ha scritto un bel libro su Gesù, anzi un libro su Dio prima che su Gesù, che si chiama Annunciare Dio come buona notizia, perché potrebbe essere annunciato come una notizia non buona. Ecco, abbiamo bisogno di mettere insieme tutte queste energie, questi cambiamenti anche della vita pastorale e spirituale, per rivelare Dio come un Dio amico e amante, innamorato fino all'estremo di ogni essere, servitore umile delle sue creature. Un Dio che non sta in nessuna religione né chiesa, perché abita il cuore in ogni cuore umano e accompagna ogni essere nella sua disgrazia. un Dio che soffre nella carne degli affamati e dei miserabili della terra, un Dio che ama il corpo e l'anima, la felicità e il sesso, un Dio che sta con noi per cercare e salvare ciò che noi roviniamo e mandiamo all'aria, un Dio che libera dalle paure e vuole da adesso la pace e la felicità per tutti. È un Dio di cui uno si possa innamorare. Grazie per la vostra pazienza.